Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dunque, la Juve la sua parte l'ha fatta. Stasera tocca Udinese-Lazio, se parliamo di vertice della classifica, a tutte le altre evidentemente, se parliamo di una serata infrasettimanale di campionato che è la seconda di cinque previste nell'arco della stagione. Il programma completo di stasera contempla Atalanta-Inter, Cesena-Cagliari, Chievo-Bologna, Genoa-Roma, Lazio-Catania, Milan-Parma, Napoli-Udinese, Novara-Siena e domani sera il posticipo Palermo-Lecce. Il match clou, per ragioni di punteggio in classifica, è evidentemente quello di Napoli, e allora comincerei dalla vigilia di Mazzarri. Si aiutino i nostri giocatori, perché abbiamo di fronte la squadra più forte del campionato. In casa al San Paolo pareggiare col Bayern doveva essere considerata un'impresa storica, quasi quasi si è storto il naso del pareggio col Bayern, e quindi si è perso il senso della realtà. E bisogna ritornare con piedi per terra, tutti. Vedo che c'è, secondo me, come feci l'anno scorso con Gargano, ingiustamente una critica esagerata, io le sostengo, sempre, al di là di tutti. Ve l'ho detto l'altra volta, metto la faccia io, tanto attacchi le piglio io, a me non me ne frega niente. Cavani per me ha fatto bene, non l'ho visto così stanco, può solo avere la possibilità di fare magari qualche occasione in più se la squadra che gli gira intorno lo porta nella condizione di poterlo fare. Qualche cosa può darsi abbia perso in lucidità, ma è normale, ma Cavani in questo momento per me non è in discussione. Vigilia dunque non del tutto serena, perlomeno dal punto di vista ambientale o perlomeno dal punto di vista di Mazzarri. Per quanto riguarda l'Udinese, invece, proprio anche per riequilibrare sul piano della in materia di serenità, ricaverei da Udinese TV questa chiacchierata, questa conversazione di Galeone sul conto dell'Udinese. Si vede chiaramente la mano dell'allenatore, adesso senza togliere niente ai ragazzotti che sono piuttosto bravi, ma molti di loro sconosciuti, a qualcuno addirittura venuto dalla Serie B francese. Dopo una prima fase, dicevo, dell'anno scorso, in cui Guidolin aveva cercato un certo tipo di gioco un po' usuale nelle sue squadre precedenti, con la punta statica là davanti, con un punto di riferimento ben preciso, ha modificato il gioco. Ha trovato questa difesa a tre che, tra parentesi, a me non piace moltissimo, però l'Udinese la fa in maniera perfetta, con la coppia l'anno scorso Pinzi-Isla da una parte e Asamoah-Armero dall'altra, che sono formidabili nelle incursioni e tatticamente bravi anche nelle chiusure. E quindi davanti Totò Di Natale continua a fare il super, è sempre stato un super, però con la maturità è ancora migliorato. E la squadra, ripeto, con questo assetto in campo gioca contro chiunque alla stessa maniera, si vedono i frutti. I ragazzotti dell'Udinese, tra i quali stasera, per scelta tecnica di Guidolin, non ci sarà Totò Di Natale, risparmiato per evidenti ragioni, ma più che di turnover la chiamerei usura in questo caso, perché insomma c'è l'età e ci sono tutti questi impegni ravvicinati nel caso dell'Udinese di campionato, ma anche di Coppa, dove ricordo che è in testa al suo girone di qualificazione, che è tutt'altro che un girone semplice. I commenti sulla Juventus di ieri sera e sulla Fiorentina, aspettando i vostri che arriveranno tra poco, comincerei da quello di Antonio Conte. Sono contento perché comunque la squadra è in crescita, la squadra sta facendo quello che, per cui lavoriamo. Sono contento dell'equilibrio anche dei miei giocatori, che non si fanno trasportare né dagli eccessi della critica in positivo né dagli eccessi della critica in negativo. Stiamo trovando un equilibrio, una prova di maturità importante questa. Mi è dispiaciuto molto leggere qualcuno che ha iniziato a tirare fuori i fantasmi del passato, quindi è gente che sicuramente non vuole bene alla Juventus, vuole il male. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi straordinari che crede in quello che propongo, in quello che faccio fare da un punto di vista fisico, tattico e anche dell'atteggiamento, e quindi il mio ringraziamento va a loro, perché, ripeto, anche i momenti tra virgolette montati ad arte per far capire o far pensare che la Juventus è in crisi, hanno risposto alla grande. A giudicare dalle mail ricevute stamani dagli ascoltatori, il dubbio principale sullo Juventus di ieri sera riguarda la maglia, il colore riguarda un problema cromatico, perché in tanti, non so, cito Gianmarco Savi da Piacenza, cito V. Carraro da Milano, Venezia, e potrei citarne tanti altri. La domanda è: ma sa spiegarmi perché la Juventus ha giocato con la maglia rosa e la Fiorentina con la maglia bianca? Non lo so, glielo giuro, quindi sono in mistero, ho cercato spiegazioni di ogni genere e preso parecchie fonti. Sono i misteri gaudiosi del marketing di oggi, perché se c'è una partita in cui la Juventus può giocare con la sua maglia, almeno in teoria, è quella di ieri sera. La Fiorentina gioca in viola, sicché bianconero contro viola, insomma, era più facilmente identificabile la partita, e invece no, è diventato rosa contro bianco, e sinceramente le ragioni sfuggono. Maurizio ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Vorrei fare due domande. La prima è: perché secondo lei un giocatore come Del Piero non ha mai avuto il pallone d'oro? La seconda: perché non hanno dato le 3 giornate di squalifica al giocatore del Lecce che si è guadagnato il rigore, mentre al giocatore della Juventus gli hanno date per la stessa identica cosa? Perché non ha mai dato il pallone d'oro a Del Piero? Penso perché c'è sempre stato qualcuno che l'ha meritato più di lui. Immagino, non lo so, mi metto nei panni dei giurati, non credo alle congiure planetarie in questi casi. Credo che Krasic lo scorso anno, insomma, non sia stato punito al primo tentativo, credo che sia stato punito dopo un certo numero, no? di tuffi, e oltretutto sia stato punito per una mancanza in un'occasione in cui, se non ricordo male, c'era mancanza assoluta di contatto con l'avversario, cioè si era proprio buttato e basta, mentre invece Corvia anticipa il tuffo, anticipa la scorrettezza, ma poi la scorrettezza arriva, e quindi mi sembra un caso diverso, questo sempre per quel che si può vedere in televisione. Commento da parte Viola. Girardino, protagonista poi entro certi limiti, ma insomma in ogni caso subentrato nel secondo tempo, dopo quel primo tempo in cui credo che la Fiorentina sia della Fiorentina la peggior prestazione in assoluta della stagione. Parlo del primo tempo in cui avrebbe dovuto, più che potuto, essere sepolta di gol dalla Juventus, e invece la Juventus ha peccato di concretezza, e nel secondo tempo la partita si è riaperta. Tant'è vero che a mio modesto modo di vedere, la Juventus è stata più brava nella mezz'ora finale che non in quel primo tempo in cui pareva aver disintegrato l'avversario, cosa che entro certi limiti era vera, però era più, come dire, apparenza che sostanza, perché l'avversario davvero non esisteva, anche per come era combinato male, ma proprio male male sul campo. Girardino. Sicuramente non abbiamo giocato il primo tempo, nel secondo tempo siamo entrati con un altro spirito, abbiamo creato qualche difficoltà alla Juve e poi siamo riusciti a vincere con questo episodio. E sono 4 partite che non riusciamo ad ottenere i 3 punti, e domenica col Genoa sarà una partita fondamentale. Io sto bene, mi sento bene, sono contento del mio rientro, è un po' amareggiato come tutta la squadra per il risultato, ma siamo pronti a rifarci domenica con il Genoa. Tornerei sul tema in attesa di qualche vostro intervento, vi vedo già prenotati sul display da Varese, da Udine, da Ferrara per esempio. Un intervento sull'equilibrio che c'è stato finora in Serie A e che si sta forse cominciando a spezzare con il controallungo della Juventus dopo l'allungo dell'Udinese di domenica scorsa, e lo strappo anche della Lazio. Vediamo se stasera tutto si ricompatta o invece si va ancora in questa direzione. Sul tema dell'equilibrio in campionato, il parere di Marcello Lippi. Quest'anno vedo un campionato più equilibrato. Le due grandi del campionato, che sono l'Inter, che ha vinto negli ultimi anni il maggior numero di scudetti, e il Milan, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, hanno avuto un inizio molto molto difficile. Poi c'è un Napoli molto forte quest'anno, che ha assunto una dimensione anche internazionale importante. E poi c'è una Juventus che è sicuramente migliorata, ha fatto degli ottimi acquisti, primo fra tutti Andrea Pirlo, che ha dato una grande qualità, un equilibrio alla squadra, e ha avuto una partenza molto felice. Sta arrivando anche la Roma, che ha fatto una scommessa importante con Luis Enrique, che non ha una grande esperienza, però con lui sperano di fare una filosofia di gioco più o meno simile a quella del Barcellona, e piano piano sta ingranando, e la cosa bella è che tutti i giocatori della Roma stanno seguendo con molto interesse il lavoro di Luis Enrique. Sentiremo più tardi un altro frammento di questa lunga intervista rilasciata da Marcello Lippi a Fiebre Maldini, che è un programma già citato altre volte di Canal Plus e Spagna, che è uno dei principali programmi qualitativamente, se non i migliori in assoluto, dedicato al calcio in Europa. Vittorio, chiamato da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini. Una cosa le chiedo in merito a quello che ho detto prima sul non utilizzo di Natale da parte di Guidolin. Piccolo appunto, se lei guarda un attimo di Natale nelle ultime partite, almeno l'ultima e anche questa, non gioca con il Napoli senza essere infortunato. In Coppa sono primi, di Natale non ha neanche giocato, tra l'altro, l'ultima partita. Oppure ha fatto un pezzo, quindi mi sembra strano un po' questa cosa del non utilizzo di Natale contro il Napoli. Volevo sentire cosa ne pensa lei. Ma io penso che mi fiderei di Guidolin e di Natale, anche perché sono abbastanza certo che sia una soluzione concordata. Poi non so fino a che punto condivisa, ma in buona parte immagino di sì. Cioè, Di Natale ha 34 anni, se non sbaglio. È un giocatore chiave per l'Udinese, che quest'anno in attacco, parliamoci chiaro, non ha Di Natale Sanchez, ha Di Natale, poi Floro Flores, poi Barreto, poi altre soluzioni alternative, però ha Totò Di Natale. Per cui Guidolin non può, in attesa di eventuali regali di Pozzo, a cui accennavo ieri o ieri l'altro, non ricordo bene, se le cose per l'Udinese continuassero ad andare a questa maniera, c'è la necessità di dosarlo col bilancino, e se lui decide che, o se loro insieme, come io penso, decidono che una va saltata, beh, si salta quella in cui Di Natale potrebbe essere meno determinante. Probabilmente serve di più in casa domenica col Palermo, questa è la loro valutazione, perlomeno immagino. Mamadou ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Intanto la ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Poi volevo dire, perché sono un tifoso dell'Inter, no? E dopo aver visto l'inizio del campionato dell'Inter, soprattutto il fatto che abbiamo preso 4 rigori contro, dove i 3 sicuramente non c'erano, io ieri, al di là del fatto che la Juve ha meritato pienamente la sua vittoria, però mi sembrava di vedere nella partita tra i giocatori della Juve che facevano la gara di chi faceva il tuffo più bello, cioè voglio dire tipo quello che ha fatto Pirlo, Pepe e Marchisio, e l'arbitro non ha mai preso provvedimenti. Volevo sapere lei che ne pensa. Ma Madu, lei no, mi risponda prima a una controdomanda. Lei da quanti anni è a Ferrara? Da 10 anni. Da 10 anni, e arriva da? Dal Senegal. Ha studiato bene il calcio italiano, lei l'ha spugnato bene, dica la verità. In 10 anni ha fatto passi da gigante, mi sembra. Sì. La ringrazio comunque. Grazie a lei, Mamadou. Diego da Brescia, buongiorno. Buongiorno Mazzini, una cortesia, io volevo una sua opinione sulla politica dei cambi di Antonio Conte. Mi spiego meglio. Giustamente nell'arco di una partita ci sono dei cambi che sono forzati a seguito di infortuni o di scelte tecniche, però io penso che cambi effettuati dopo l'ottantesimo minuto di gioco, quindi a 10, un quarto d'ora minuti dalla fine della gara, siano un'umiliazione. Lasciamo stare il caso di Del Piero, però anche di altri giocatori che comunque scalpitano, che sono in panchina, che per la prima volta dagli ultimi anni comunque fanno parte di una panchina, diciamo, di tutto rispetto, e che sicuramente non portano poi i vantaggi che potrebbero portare. Ieri sera, ad esempio, penso che se Estigarribia fosse entrato un quarto d'ora prima e avesse sostituito un Vucinic un pochettino spento, avremmo avuto degli altri risultati. La ringrazio. Grazie a lei, Diego. Non condivido per nulla il suo intervento. Io credo che qualsiasi giocatore, e ci mancherebbe altro, guardi, proprio oggi c'è un eco forse addirittura giudiziaria del caso Mancini-Tevez per quello che riguarda Bayern di Monaco, Manchester City, quando Tevez si rifiutò, secondo Mancini, di entrare in campo perché era troppo tardi dal suo punto di vista, e Tevez contrasse, insomma, si oppone a questa tesi e avrebbe pare intenzione di trascinare Mancini in tribunale per calunnia o per diffamazione, sostenendo di non essersi mai rifiutato di entrare. Adesso poi, al di là di come finisca quella vicenda abbastanza lontana, io non riesco a capire perché un giocatore a disposizione, cioè se un allenatore ha 7 pedine che può cambiare tra il primo e il 90° più recupero, ma perché non può sfruttare tutto quel tempo? Poi si tratta di dosare magari certi tipi di atteggiamenti o di trattamenti verso giocatori bandiera, verso giocatori simbolo. In qualche caso sì, si può arrivare alla mancanza di rispetto, ma a Estigarribia mangiasse le sue micchette, no? E credo che sia ben contento di mangiarle e di essere trattato da Boccio o da Garzone prima di diventare Cabrini, immagino. Mi auguro per lui, perché questo sarebbe il suo atteggiamento mentale giusto, è il suo, mi permetta, che è sbagliato da questo punto di vista. Sto guardando l'orologio perché nella seconda parte del programma avremo un dotto e interessantissimo per il mio intervento del dottor Volpi a proposito di un tema un po' avveniristico legato all'infortunistica sportiva, e quindi ci sarà poi tempo un po' più tardi per altri vostri interventi e per la seconda parte, un'altra parte di quell'intervista a Lippi di Febbre Maldini. Vediamo se riusciamo ancora a sentire Giuseppe dalla provincia di Varese. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Garzini. Prego. Mi sente? Sì, certo. Io ho visto la partita ieri e mi sembra che la difesa della Juventus sia veramente inaffidabile, perché quando è protetta da un centrocampo che fa un gran filtro, che fa le palle molto sporche gli attaccanti, allora tutto va bene, ma quando viene attaccata rischia di capitolare a ogni cross che gli arriva in mezzo all'area. Secondo lei cosa ne pensa? Grazie. Secondo me sono d'accordo, quello è il tallone d'Achille, cioè il quarto d'ora iniziale del secondo tempo di ieri deve far riflettere indubbiamente proprio nella direzione che lei ha indicato. Volevo ricordare a quell'ascoltatore tifoso l'Udinese di prima, come mi segnala Franco Piantanida, che poi l'anno scorso l'Udinese giocò a Napoli senza Di Natale e vinse la partita. Non è poi così da escludere che in questa scelta di stasera ci sia magari anche un pizzico di scaramanzia. Voltiamo pagina. È apparso nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, ripreso dal Sunday Times, un articolo molto interessante a proposito di sport, calcio in particolare, e traumatologia. Una squadra di Premier League, di cui non si cita il nome, ha chiesto a uno studioso di genetica di analizzare il DNA dei suoi calciatori per scoprirne la chiave, insomma sarebbe quella di scoprirne la predisposizione agli infortuni. Ora, da profano mi verrebbe da domandarmi se siamo già arrivati nel futuro senza essercene accorti. Da scettico blu, più o meno, mi rivolgo a chi ne sa molto più di me, come il dottor Piero Volpi. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti voi, ciao Gigi. Ciao Piero, senti, come la configuriamo una notizia di questo genere? Ma forse un balzo molto importante in avanti, forse troppo in avanti, così in senso generico. Dal punto di vista scientifico direi che è un'idea che c'è già su altri campi, nella cardiologia, nell'oncologia, sì. E sarebbe importante capire, conoscere tutte le malattie che poi noi vediamo, se hanno poi effettivamente, come sembra in molti casi, una caratterizzazione genetica, uh-huh. E saperlo significherebbe sapere molto in anticipo. Pensate a quante malattie oncologiche, cardiovascolari, senza poi ovviamente poi l'applicazione può essere tradotta anche come in questo caso nello sport, però pensate, al di là di sapere se uno sportivo si fa male, sarebbe molto più importante abbattere quella con questo sistema di, perché poi certo. Immediatamente scattano i sistemi di prevenzione, e quindi questo significherebbe ridurre di tantissimo l'incidenza della mortalità e della malattia, di tante malattie gravi che purtroppo assillano oggigiorno la nostra vita quotidiana, la nostra società. Detto questo, il discorso, quindi l'idea è sicuramente un'idea che, ripeto, è già

Il fornaretto di Frascati contribuisce al netto successo con una tripletta. Con 18 reti, Amadei trascinerà la formazione giallorossa allo scudetto. La Roma diventerà così la prima squadra del centro-sud a raggiungere il traguardo. Ci sarà più tempo per i vostri interventi in diretta domani, perché domani è un giovedì che somiglierà tanto, anzi del tutto, a un lunedì. Chiuderei oggi con questa eccellente battuta di Platini a proposito di Beckham in arrivo, pare, al Paris Saint-Germain. Dice: Beckham a Parigi, beh, sarebbe buono per lo shopping. L'opinione di Michel Platini credo ampiamente condivisibile. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.